La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, sono le 16.32 primi 42 secondi, siamo in diretta dagli studi di Radio 24 qui di Milano, in questo 2 di novembre, lunedì, un pensiero per i morti, visto che oggi è il giorno dei defunti, e quindi un abbraccio a tutti quelli che oggi ricordano chi non c'è più e gli è caro. Detto questo, andiamo subito all'argomento del giorno, senza perdere tanto tempo, per vedere chi di voi è interessato a dire la sua opinione all'800240024 o con gli sms al 349-238-6666. Viviamo la prima coda della chiusura trionfale, insomma, usiamo l'aggettivo che sui media è stato più usato, per Expo qui a Milano, con l'idea di esportare il metodo Expo a Roma e altrove in Italia. Non è un caso che il prefetto di Milano Tronca sia il commissario adesso, subito dopo il disastro di Marino e il problema politico tra governo e sindaco a Roma. E allora ci siamo posti una domanda di servizio pubblico, per così dire, tentare di capire, senza per questo apparire rompiscatole, gufi, eccetera, eccetera, ma tentando di fare il nostro mestiere, che cosa davvero siamo in grado di dirvi su qual è stato l'impatto economico complessivo tra Milano, Lombardia e il resto d'Italia di Expo 2015, nella convinzione che questo serva a capire se in Italia siamo davvero capaci, in occasione di grandi eventi, di fare stime di costo-beneficio che reggano alla prova dei fatti, di porci già subito il problema di che cosa possiamo imparare anche da questa vicenda per la candidatura, visto che l'hanno presentata, di Roma per le Olimpiadi 2024, con tutto quello che c'è a Roma, e di fare quindi un po' di vaglio tra ciò che era stato detto prima dell'Expo sull'impatto economico che avrebbe avuto la manifestazione in caso di successo, e sia pur senza negare che il successo c'è stato rispetto ai terrori in cui si era aperta tra indagini, ritardi e così via, senza negare il successo, di capire però che cosa noi sappiamo e siamo in grado di dirvi sui numeri veri di quello che è avvenuto a Expo e dell'impatto sull'economia italiana. Mi limito a dirvi, a richiamarvi una delle previsioni, poi faccio una seconda cosa, vi ricapitolo che cosa ha scritto il Sole 24 Ore ieri, e poi vado all'ospite che ha scritto un pezzo sulla voce.info che potete leggere per esteso. È un ricercatore di economia all'Università Ca' Foscari di Venezia, aveva scritto sulle stime costi-beneficio di Expo prima di Expo, ben prima, ed è tornato sull'argomento appena Expo è finito. Allora, ricordiamo tra le tante stime precedenti all'Expo quella che era del CERTET, che parlava di 3 miliardi e mezzo in termini di spesa dei visitatori, che ne determinavano fino a 4 miliardi, anzi più di 4 miliardi di valore aggiunto, con un contributo al PIL complessivo per l'Italia che andava nelle diverse stime da 10 miliardi, che era la SDA Bocconi a stimare, fino addirittura a 30 miliardi il CERTET. Capite bene che 30 miliardi siamo in presenza di quasi 2 punti di PIL. Ecco, richiamo solo queste. Se andiamo a vedere che cosa ha scritto il Sole 24 Ore ieri, domenica, il titolo era del Sole 24 Ore: impatto sul PIL italiano fino allo 0,4%, in circolo 2,7 miliardi di euro, 40.000 gli incontri d'affari, il turismo con il 35% di presenze in più a Milano. L'articolo che firmava Giovanna Mancini ieri sul Sole 24 Ore, diciamo che le stime molto generose che ho richiamato io del pre-Expo non le citava, e preferiva iniziare con le stime prima della via di Expo, che calcolavano l'impatto dell'evento sull'economia italiana attorno allo 0,2% del PIL. Come avete visto, le stime che ho richiamato io erano di molto maggiori, e quindi rispetto a questo 0,2% del PIL l'articolo del Sole 24 Ore dice è andata così al di là delle aspettative, che invece l'impatto sul PIL potrebbe essere fino allo 0,4%. Però, ripeto, le stime che abbiamo visto prima della manifestazione erano molto, molto, molto più ampie di quello 0,2%. Allora, andiamo al nostro ospite. che se ne è occupato prima e dopo, e tentiamo di capire come si fa a calcolare quello che è avvenuto davvero e in che ordine di grandezza si può stimare, e terzo, quindi, cosa pensare delle stime costi-benefici che abbiamo visto prima della manifestazione e che cosa ci dicono in vista di Olimpiadi 2024. Ecco, e ai nostri microfoni collegato Jérôme Massiani, grazie di essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Allora, io ho richiamato alcune di quelle stime, che è le stesse che richiama lei all'inizio del suo pezzo, e poi quelle del Sole 24 Ore di ieri. Da quale cominciamo? Quali stime bisogna prendere per fare un paragone rispetto a che cosa siamo in grado di stimare oggi? Allora, è molto facile sbagliare, perché molte delle cifre che sono disponibili sulla stampa o su diverse fonti in realtà si riferiscono a cose diverse o sono calcolate con ipotesi molto diverse. Ad esempio, in alcuni degli studi ex ante che sono stati fatti dal CERTET o da SDA Bocconi, alcuni includono la spesa per infrastruttura, che può essere anche questa, con certo, più o meno larga, o altri ne escludono. Già una cifra, cioè uno dice, perché un economista dice 10 miliardi e un altro economista dice 30 miliardi, non si possono mettere d'accordo, ma in realtà succede anche spesso che non misurano la stessa cosa o che hanno fatto una un'ipotesi che certo, è indicata con una riga all'inizio della relazione che si dimenticano. Allora, comunque possiamo, anche che se fra 10 o 30 miliardi c'è uno spazio molto ampio, direi. Possiamo comunque dire che l'impatto reale dell'Expo potrebbe essere, strettamente in termini economici, inferiore a queste cifre. C'è un aspetto metodologico che sempre di più gli economisti tendono a sottolineare e che mette un po' in crisi questi calcoli. Si potrebbe chiamare l'effetto di sostituzione, che è una parola inglese, potremmo dire displacement o altre parole del comunque genere. Comunque, effetto di sostituzione. Esatto, di sostituzione, per dire che in particolare la spesa dei cittadini presenti nell'area che ci interessa, che può essere Lombardia o Italia, non è tutta addizionale per l'economia italiana. Esatto. O per dirlo in altre parole, un milanese che va all'Expo forse ci spende 100 euro con la famiglia, però non possiamo dire che questi 100 euro non sarebbero stati presenti nell'economia italiana se non ci fosse stata l'Expo. Dunque la grande distinzione che propongono le persone che si occupano di questo è la distinzione fra iniezione di risorse e riallocazione di risorse. Anche un po' per i visitatori stranieri ci potrebbe anche essere questo effetto, perché non è detto che tutti i visitatori stranieri che sono venuti all'Expo non sarebbero venuti in Italia senza l'Expo. Quindi, insomma, la prima premessa è che comunque è complicato stimare le risorse realmente addizionali dovute all'evento. E va bene. Questa è la parola chiave. Addizionale, infatti, è la controparte di sostituzione, e noi dobbiamo proprio misurare l'impatto addizionale. Allora, è abbastanza difficile arrivare a sapere cosa avrebbe fatto la gente se non ci fosse stato l'Expo, per ovvio motivo che noi. È caduta la linea in questo momento e quindi dobbiamo immediatamente provare a richiamarlo, perché fino a questo momento siamo solamente, diciamo così, a una premessa metodologica, cioè quella per la quale ogni stima, a seconda di come calcola l'effetto addizionale, può variare molto significativamente. E pur tuttavia, mi fate sapere naturalmente quando è ricollegato, e pur tuttavia qualche cosa noi, grazie alla stima dei 21 milioni superati di visitatori, di quanta parte di questi 21 milioni sono stranieri, ecco, già qualche cosa siamo in grado di fare come esercitazione di calcolo sulle stime addizionali, sul fatto che oramai ci abbiamo più o meno la stima di quanto è stato speso per i lavori e abbiamo però anche il numero complessivo di visitatori italiani ed esteri. Ecco, dopo fatta la premessa metodologica, secondo i suoi calcoli, Jérôme Massiani, qual è l'effetto addizionale rispetto al quale con una certa prudenza possiamo oggi fare le prime valutazioni? Allora, per quanto una prima componente della domanda riguarda la spesa addizionale dei turisti stranieri. Sì. A questo si aggiunge una minima parte addizionale da parte dei visitatori italiani, che anche loro possono essere spinti a consumare un po' di più grazie a questo evento. Sorvolo perché in realtà è ancora un po' più complesso. Dunque, guardando a questi aspetti, possiamo stimare un effetto difficilmente superiore a 1,5 miliardi di valore aggiunto addizionale legato all'Expo. Questo che riguarda la spesa turistica nel complesso, esatto, tra italiani e stranieri. Esatto. Questo è il primo capitolo, diciamo, la prima voce di contabilità. La seconda voce di contabilità è molto più discussa e complessa, che è quello dell'impatto della spesa per le infrastrutture, perché qualcuno dice: beh, sono stati spesi X miliardi, poi X varia molto secondo le valutazioni che uno può fare. A volte si parla di 11 miliardi spesi per preparare gli investimenti o le infrastrutture dell'Expo. E allora questo, anche quello, creano degli effetti sull'economia, però non è così semplice, perché questi 11 miliardi di spesa prevalentemente pubblica, in realtà anche lì sono degli effetti di sostituzione, per dire che sono soldi spesi per fare una bretella autostradale lì per l'Expo, ma allora forse sarebbe stata utilizzata altrimenti per fare un altro progetto. Cioè, non esiste nell'economia una scatola con degli euro. No, è chiarissimo. Per esempio, cioè la linea Lilla della metropolitana a Milano si sarebbe fatta comunque, magari in più mesi, ma si sarebbe fatta comunque, tanto per essere chiari. Io voglio solo sottolineare che la stima di spesa turistica in termini di valore aggiunto addizionale inferiore al 1,5 miliardi, stiamo parlando di una roba che è pari allo 0,1% scarso del PIL, per essere chiari come ordine di grandezza. Comunque, allora proceda. Dunque, questo, allora, poi dipende a che cosa confrontiamo questo 1,5 miliardi, perché questa cifra che ho citato l'ho citata per l'economia italiana. Ovviamente il bilancio è un po' diverso se si guarda l'economia lombarda, perché certo, è molto probabile che l'Expo ha attivato dei flussi verso la Lombardia e che dunque la Lombardia ha guadagnato qualcosa in più che altre parti del territorio gli hanno concesso in un certo modo. In effetti, le stime di copertura dell'occupazione delle stanze negli alberghi milanesi e salì nel settembre 2015 era all'89%, nel settembre 2014 era al 75%, quindi un più 14% per esempio per la copertura degli alberghi. Ma questo significa però che gli effetti sono risultati molto più concentrati intorno a Milano che diffusi in Italia, come si diceva in tutte le stime dell'Expo. Procediamo ancora. Esattamente, e in merito a questo spesso si dice nel mio campo che l'analisi economica, la valutazione di progetto, è sempre possibile restringere tanto il vostro campo di analisi che alla fine trovate un risultato positivo. Dunque sicuramente se noi ci concentriamo su Milano Euro troveremo un risultato positivo, ma questo non è proprio quello che ci interessa. Bisogna vedere le cose a scala nazionale, perché è l'Italia che alla fine offre una garanzia finanziaria sull'Expo e dunque è lei che ci mette la faccia e i soldi, e dunque è giusto fare uno dei bilanci almeno a questa, questa scala. Non è che hanno pagato solo i contribuenti di Milano e della Lombardia, hanno pagato tutti. Infatti. Allora, a questo punto questo 1,5 miliardi, che è una stima un po' per eccesso dell'impatto della spesa di visitatori, noi potremmo dire: beh, comunque è un risultato positivo, perché viene una cifra positiva per molte persone che non sono economiste. Che sia più 30 miliardi, più 1 miliardo o più 100 milioni è comunque una cifra positiva. Sì, però la differenza tra 1,5 miliardi e 30 miliardi è evidente macroscopicamente, anche a chi non fa questo di mestiere, insomma. Sì, no, certo. Però l'altro aspetto, che anche se è positivo questo risultato, in realtà non è un risultato netto, questo è un risultato lordo che bisogna confrontare a quante risorse abbiamo investito per ottenere questo risultato in termini di promozione di immagine, di organizzazione dell'evento, e capire quanto ci è costato, gli economisti dicono in termini di costo d'opportunità, dedicare tante risorse a questa Expo. E questo ultimo calcolo in realtà sarebbe quello veramente interessanti, però i non economisti non ci si interessano perché è una cosa particolare, gli economisti anche si lasciano a volte distrarre da altre cose, perché lì bisogna diventa un po' anche un po' speculativo, capire lo il capisco. Costo d'opportunità, bisogna farsi delle domande lo che capisco. Diciamo diventano che un po' scomode. Esatto, diventano scomode, e poi i modelli del costo opportunità insomma sono cambiati negli anni, sono molto diversi, è veramente una croce delizia, per così dire, per tutto quello che riguarda l'impiego concentrato di risorse pubbliche su grandi eventi. Allora, intanto un minuto di informazione sulle strade e poi passiamo alla lezione. Se questi sono i numeri, come vedete, molto più contenuti di quello che possiamo capire a oggi dell'impatto economico del grande successo, torno a dirlo, che è Expo 2015, che cosa questo ci dice per le Olimpiadi 2024 a Roma? Torniamo tra un minuto. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta, 16:49 primi 17 secondi. Il tentativo di fare, diciamo, una riflessione corretta di quello che possiamo capire poche ore dalla chiusura di Expo 2015, che è stato comunque un grande successo rispetto ai rischi che si profilavano sull'impatto economico del nostro paese, ricordando le stime prima di Expo che parlavano di un contributo al PIL complessivo tra i 10 e i 30 miliardi di euro, i 10 miliardi diceva la SDA Bocconi, 30 miliardi il CERTET. Abbiamo con noi Jérôme Massiani, che ci ha illustrato il metodo con il quale in realtà il valore aggiunto lordo generato dalla spesa turistica degli italiani e degli stranieri, quello addizionale, è intorno a 1,3-1,4 miliardi. Guardate che è una stima che voi potete già confermare con altre valutazioni, per esempio Coldiretti il giorno della chiusura dell'Expo ha diramato una nota per la quale le sue stime erano tali per cui i visitatori dell'Expo complessivamente avevano speso in tutto, tra viaggi, visitare, mangiare, dormire durante il soggiorno, 2,3 miliardi. Allora, questi 2,3 miliardi, se voi fate la stima lorda in realtà del valore aggiunto, vedete che le due cifre in realtà tornano, e Coldiretti ha tutto l'interesse a dire che è stato un enorme successo, visto che si parlava del cibo. Se andate a vedere la stima della Camera di Commercio di Milano, la stima della Camera di Commercio di Milano era quella che nei primi 4 mesi Expo aveva generato sul territorio lombardo 100 milioni di ricadute aggiuntive nei primi 4 mesi. E poi naturalmente i due mesi successivi la stima la Camera di Commercio non l'ha ancora fatta, però stiamo parlando di 100 milioni in 4 mesi. Ecco, quindi come vedete poi le cifre sono molto molto più ridotte di quanto non fossero all'inizio. Allora, naturalmente sarà una stima da mettere a punto nel tempo, per così dire. Gli investimenti andranno misurati anche sull'utilizzo che si farà dell'area di Expo infrastrutturata. Adesso bisogna smantellare più dei padiglioni e bisogna decidere che utilizzo dare all'area post Expo, a questo milione di metri quadrati, che poi in realtà è un chilometro quadrato, e vedremo, c'è una riunione all'inizio della prossima settimana, se il governo riesce a mettere fretta ed energia nel progetto di cui si parla, cioè metà sarà vincolata ma l'altra metà dovrebbe essere una specie di cittadella, di hub tecnologico insieme, di campus universitario della statale. Ma veniamo al punto del prossimo grande evento, che non è il Giubileo tra poche settimane, a cui stiamo andando col coltello tra i denti dei commissari prefettizi, e che Dio ce la mandi buona, bensì la candidatura di Roma alle Olimpiadi 2024. Ricordo a tutti che il governo Monti disse no, noi non ce lo possiamo permettere coi guai che ha. Ricordate che a Roma c'è una gestione commissariale del debito per oltre 14 miliardi separata dal bilancio. Allora, che cosa ci dice questo, Jérôme Massiani, in vista di Olimpiadi 2024? Ricordo a tutti che noi ci siamo candidati senza un business plan delle Olimpiadi, senza un budget plan per le Olimpiadi, eppure ci siamo candidati. Allora, su questo io potrei iniziare sperando che faremo meglio dei giapponesi per una volta, perché non so se conosci questo aneddoto, che quando il Sapporo ha vinto la sua candidatura per i giochi invernali, poi c'è stato dopo una serie di indagini per capire come erano arrivate quelle cifre, e poi alla fine hanno detto ma no, ma abbiamo perso gli archivi della candidatura, dunque non potrete mai verificare quello che è stato detto. Dunque speriamo che fino per Roma faremo meglio dei giapponesi. Detto questo, dunque ci sono 6 differenze fra Olimpia e Expo, e ognuno ha le sue sfide, ha le sue caratteristiche anche dal punto di vista economico. C'è un aspetto delle Olimpiadi che è piuttosto... Però sappiamo che nei precedenti... Scusi se la interrompo. Riesce a averne una stima abbastanza precisa. Sì, però sappiamo anche... diversi livelli di... delle competizioni finale, semifinale, quarto di finale, dunque questo aspetto è un po' più sicuro. L'aspetto un po' brutto è che è una cura brutale le Olimpiadi, nel senso è vero che c'è un periodo di preparazione, però parliamo di 2 o 3 settimane o di al massimo un mese di prove dove la città è sovraesposta in diversi termini, dunque è un po' meno, come dire, brutale un Expo che ha questi 6 mesi. Sarebbe stata la possibilità di fare alcuni cambiamenti urbanistici importanti. Nel caso di Milano vediamo che ne rimarrà forse ben poco. Ecco, detto questo, il grande pericolo al quale dobbiamo essere attento in questa fase è quella della corsa alle cifre più alte possibile, perché sì, in queste fasi di candidatura è molto facile farsi uno studio economico fatto anche in buona fede, perché io sono sicuro che c'è gente che crede tanto a questi grandi eventi, che ci mette la fede, ma a volte cade in alcuni comportamenti che non sono rigorosissimi dal punto di vista... Nel dossier di preparazione della candidatura per i 4 anni prima, che poi il governo non appoggiò, si parlava addirittura di 2 punti, fino a 2,5 punti di PIL che venivano all'Italia dalle Olimpiadi, per essere chiari, ecco, come ordine di grandezza. La stima attuale noi non l'abbiamo, però noi sappiamo che la storia delle Olimpiadi è costellata, ce ne siamo occupati in più trasmissioni, di disastri per i paesi organizzatori che hanno effettuato sottostime dei costi e invece sovrastime delle revenue, delle entrate. Alla Grecia è costato un passo avanti verso il disastro del default, l'edizione dei giochi che hanno ospitato, e il più delle volte il disastro economico si è realizzato, tranne rarissime eccezioni. Lei si sentirebbe di dire che con le condizioni in cui Roma oggi c'è bisogno delle Olimpiadi come moltiplicatore, o al contrario bisogna essere prudenti e dire no grazie? No, dobbiamo partire senza l'a priori che sia un buon affare, dobbiamo essere severi con noi stessi, rigorosi con noi stessi, anche all'eccesso, perché ogni euro di spesa pubblica conta in questo periodo, come dovrebbe contare sempre, e dunque bisogna non consentirsi la contabilità facile o la contabilità creativa o la condiscendenza a se ci piace l'idea che le Olimpiadi siano una buona cosa. Dunque bisogna mettersi nelle condizioni di sapere che non è a priori un bene, e facendo questo passo psicologico allora forse potremmo discutere in un modo un po' più ragionato e più rigoroso su questo tipo di occasione. Le faccio una domanda, visto che io sono torinese, piemontese: le Olimpiadi invernali 2006 a Torino anche lì furono un successo, ma il Piemonte e Torino ancora sono con le aliquote al massimo, il Piemonte per il disastro della sanità, ma Torino ancora per la lunga coda dei debiti delle Olimpiadi. Non sarebbe bene che sulla valutazione dei costi e benefici di questi grandi eventi fossero commissioni di economisti e di esperti del settore terze rispetto ai promotori a fare le valutazioni? Allora, questo sarebbe ottimo. Nel caso di Torino io penso di poter dire, perché ho anche analizzato questo caso, io sto preparando un libro che tratterà di Torino e di Milano, e dunque spero che fra pochi mesi sarà disponibile per la discussione pubblica. Nel caso di Torino non c'è stato un vero bilancio ex post. Questo, in realtà anche all'estero c'è questo problema, non sempre c'è questo bilancio ex post, che invece secondo me se ne posso dire rispetto alla mobilitazione di soldi del contribuente sarebbe necessario per imparare, riflettere, evitare altri errori e confondere il tifo per i grandi eventi in Italia come una specie di tifo nazionale, per cui chi obietta in nome dei soldi diventa un antinazionale, un antipatriota, un rompicoglioni, mentre invece pensa semplicemente che c'è da imparare e da non sprecare, anche da un grande successo come l'Expo di Milano. Continuate su Radio 24 e grazie a Jérôme Massiani per averci fatto le sue cifre.